Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, l'appuntamento è per le 12 di domani a Nyon. Sorteggio integrale, possibilità anche di derby, quindi o di derby inglese o di derby francese. Quattro squadre di prima fascia: Barcellona, Inter, Manchester United, Arsenal. Le ho date in ordine di bookmaker, adesso ve lo notifico l'ultimo aggiornamento. Seconda fascia: Bordeaux, Lione, Bayern e CSKA. Vi dicevo dei bookmaker. Dunque, l'aggiornamento è il seguente: la quota del Barcellona, che rimane favorito, è a 3, è scesa a 4,50 l'Inter, che a questo punto viene considerata la seconda favorita per la vittoria finale, è rimasto a 5 il Manchester United, subito oltre l'Arsenal a 8,50, poi si sale già a 14 per il Bayern Monaco e da lì a salire ancora per Lione, Bordeaux e il CSKA, che se uno se volesse giocare adesso lo prenderebbe a 50 volte la posta, certo poi con enormi possibilità di riuscite. Già che siamo sui bookmakers, è stato sospeso anche la SNAI, e non solo altri picchetti, anche la SNAI ha sospeso le giocate sulla X di Chievo Catania per domenica, perché c'era una valanga di giocate sul pareggio in questa partita. Non credo per strane manovre, ma perché effettivamente, scorrendo la classifica e vedendo come sono sistemati il Chievo e il Catania, effettivamente la possibilità che queste due squadre domenica non si facciano troppo male esiste. E vi dicevo delle quote invece dei sorteggi di Coppa, e di queste, a parer mio, due fasce, cioè Barcellona, United, Inter e Arsenal in una fascia e le altre quattro nell'altra. Questa ovviamente è la mia opinione, vorrei sentire quella del ministro degli esteri Fabio Tadelli. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Sì, concordo. Spesso ho visto in questi giorni nelle stelline dare una stellina in più a Manchester United e a Barcellona nei confronti dell'Inter rispetto all'Arsenal. Sono abbastanza d'accordo. Sono però un po' combattuto, perché da un lato l'Arsenal è una squadra che quest'anno, quando ha affrontato le grandi in Premier, ha sempre perso e oltretutto l'anno scorso fu quasi brutalizzata anche fisicamente dal Manchester United, e non è cambiatissima l'Arsenal, anche se ha un anno d'esperienza in più. Dall'altro ho il sospetto che l'Arsenal, giocando un calcio completamente diverso rispetto a quello dell'Inter, potrebbe essere invece una squadra molto pericolosa, e quindi nel dubbio direi che per l'Inter sarebbe meglio non prenderla comunque la squadra di Wenger. Già ieri io auguravo all'Inter il Bayern, nel senso che mi sembra la squadra più simile al Chelsea, ma in peggio potenzialmente, no? Tolto sì. Robben. Concordo, nel senso che ci sono dei sorteggi che saranno certamente molto graditi, perché comunque il CSK Mosca, lo stesso Bordeaux, sono squadre che uno non si aspetta di vedere ai quarti di finale. Tra il Lione e il Bayern di Monaco prenderei il Bayern di Monaco, non tanto perché sia più forte il Lione o più forte il Bayern di Monaco, questo non è facile dirlo perché le squadre non si sono affrontate recentemente, però ho la sensazione che il Bayern di Monaco sia un po' in credito con questa Champions, e quindi, senza voler fare gli italiani a tutti i costi, io penso che dopo che ha buttato fuori la Juve e ha buttato fuori la Fiorentina, pensare che possa far fuori anche l'Inter mi sembra francamente eccessivo. Poi con tanti saluti a Madrid, tra l'altro, da parte di Robben e Snyder, e di Cambiasso e di Samuel, se vogliamo aggiungere. Sì, ce ne sono tanti, però diciamo questi due sono i più recenti della gestione florentina. Verissimo. Verissimo, Real che, stando a notizie di Marca stamattina, sta adesso inseguendo Agüero oppure forse addirittura Rooney, perché insomma quando ti butti nel collezionismo poi è difficile smettere, no? Perché la cosa bella del Real Madrid è che quando sbagliano poi capiscono, è una squadra, una dirigenza che quando commette un errore poi lo capisce e si comporta di conseguenza, per cui a questa squadra mancano evidentemente degli attaccanti, mi sembra giusto andarli a cercare. Ma come no? Senti, un ragionamento che facevo vedendo ieri sera per l'ennesima volta Messi insomma, illuminare, incantare, affascinare, vincere, non dico da solo, ma insomma comunque decidere da solo, orientare da solo, questo sì. Al punto che personalmente, visto che lo Stoccarda era partito bene, aveva giocato un buon primo quarto d'ora per come lo doveva giocare. Sì, ma anche dopo il gol ha avuto subito un 10 esatto. minuti di reazione, cioè di vitalità. Io sia al primo gol di Messi che all'assist successivo per il secondo mi è scappato un non vale, perché insomma non vale, allora cioè, è inutile che gli altri giochino una buona partita, che la preparino bene, che si attrezzino al meglio se poi c'è Messi. Vediamola alla rovescia, e cioè non è che dipendendo così tanto in questa fase da Messi e da Rooney rispettivamente, le due favorite, sono per questo un pochino più vulnerabili, nel senso che lasciamo perdere le ipotesi sfavorevoli di infortuni o semplicemente però se, cioè, mi è sembrato che rispetto a queste due l'Inter dell'altra sera non abbia un uomo a cui non può rinunciare, anche se Sneijder è stato superbo e anche se altri hanno fatto una grande partita, mentre queste due squadre mi sembrano molto legate al rendimento del loro uomo, che in questo momento sono poi i due migliori giocatori del mondo. La domanda, che poi domanda non era, ma era una riflessione a voce alta un ragionamento, era è una forza avere indubbiamente una forza indubbiamente avere in squadra Messi o Rooney, però potrebbe anche essere un limite. Lo è in generale, nel senso che quando hai un giocatore che ti caratterizza così tanto è abbastanza facile dire che ha annullato lui e annullata la maggior parte della forza dell'avversario. Faccio due riflessioni: A, che annullarli è molto difficile, è B, che probabilmente il Manchester United dipende più da Rooney di quanto il Barcellona non dipenda da Messi, per due motivi molto semplici: perché Rooney fa almeno due fasi e mezzo, cioè fa quella addirittura di recupero pallone e di rilancio, e poi quella d'attacco. Mai come quest'anno Rooney è produttivo in attacco. Messi invece è innestato in un telaio nel quale lui è certamente la punta di diamante, è certamente il primo tenore, ma comunque gli altri possono recitare una parte importante. Non dimentichiamoci, ieri sera mancava Xavi, che è un giocatore che Guardiola penso si farebbe fucilare piuttosto che perdere per molto tempo. Io non credo che Ibrahimovic sia un rottame, come ho sentito dire da qualcuno che lo considera finito dopo che ieri l'ha tenuto in panchina. Quindi penso che come forza complessiva, se proprio mi vuoi portare su questo terreno, riesco a dirti che il Barcellona può fare a meno di Messi, questo Barcellona può almeno per una volta fare a meno di Messi. Rooney invece credo che sia più importante per il Manchester United, proprio perché il Manchester United non è così forte negli altri 10-11 anni. Sì, tutto vero. Difatti su Ibra, no, adesso rottame, ovvio che sono quelle sintesi giornalistiche un po' estreme, no? che si fanno per il gusto di un titolo o per una botta di notorietà. È vero però comunque che l'inserimento tarda e che in certi momenti si ha quasi la sensazione della crisi di rigetto. Messi è più libero, comunque è stato più libero in quell'ora di gioco, quella in cui la partita si è decisa, che non nell'ultima fase, perché comunque avere davanti Ibrahimovic è insomma è ingombrante anche da un punto di vista di presenza fisica. Ma non c'è dubbio che Messi giochi meglio con Pedrito, perché Pedrito è veramente bravissimo ed è un Messi in sedicesimi, non so, cioè è un giocatore che è perfetto per fare la spalla, forse. Ma dipende molto dalle partite, perché adesso, poi ieri sera il Barcellona è stato talmente bello da farci dimenticare quanto male abbia giocato all'andata e quanto a volte, sì, soprattutto in trasferta, la squadra faccia fatica. E in alcune partite io credo ancora che Ibra gli servirà per vincere quelle partite 1-0 che ci vuole quello che te la vince da solo con un colpo particolare. Ecco, Ibra in quello è utile. Sul fatto che poi Ibrahimovic sia innestato in un processo chimico nel quale lui forse non è l'elemento migliore possibile, penso che insomma, lo diciamo da mesi, dall'inizio, e però appunto non ci sono miglioramenti. Andrea da Bologna, non so in quanto paradossalmente testualmente scrive: non capite la strategia del Real, che non compra per rafforzarsi ma per indebolire gli altri. Beh, insomma, il risultato comunque è sempre lo stesso, fuori agli ottavi, 6 anni di fila fuori agli ottavi, fuori agli ottavi, cioè, non è che li indebolisca poi così tanto, no? Chiunque sia, indebolisce le casse sociali, ma lì ci pensa Florentino Perez, Rossano. Beh, vediamo. Fino a quando ci pensa poi. Mancava Xavi, fa notare Rossano, non proprio l'ultimo arrivato. Mancava il direttore d'orchestra, questo è vero, ma Yaya Touré ha fatto la parte di Xavi, poi con altre caratteristiche, ovvio, ma ha fatto molto bene. Sai, Gigi, una cosa di 10 secondi. Sì. L'assist di Messi per il cross di Yaya Touré è splendido, certamente. Devo anche dire questo, cioè, la verità è che Messi non predica nel deserto, perché un assist così lo sa fare lui, ma lo sanno fare anche altri, credo, magari non così bene. Il problema è che tante squadre non hanno quelli che tagliano, cioè certo. Il tagliante, la proposizione lì di Yaya Touré è la cosa che fa sì che Messi possa, cioè che il genio possa sgorgare, altrimenti verissimo. Un taglio del genere non è impossibile da fare per uno che sa passare la palla, e ce ne sono in giro parecchi, ma se nessuno si propone poi non si crea quella situazione. Molto vero, ancora due o tre particolari, poi magari facciamo un discorso finale d'assieme, anche se il discorso d'assieme l'abbiamo già fatto all'inizio per quello che riguarda il sorteggio. I due particolari o tre sono: uno è John Terry, dunque è appena uscito da una vicenda che è riuscito forse a rappattumare in una certa maniera. Cosa fa l'altra sera? Mi pare di aver letto, no? Che se ne accorge, non se ne accorge, ingrana la marcia in maniera maldestra, eccetera. Comunque ha tirato sotto un inserviente del Chelsea col fuoristrada, se non sbaglio. Sì, gli ha anche procurato una frattura. E credo che oggi John Terry, se non prima o dopo l'allenamento, dovrà andare a spiegare a un commissariato questo comportamento. Beh, che ti dica, è un periodo che gli gira così. Insomma, tra l'altro ieri molti commentavano, cioè, povero John Terry, che brutto momento che sta passando. Beh, insomma, in realtà i brutti momenti li hanno passati gli altri, soprattutto questo, che c'ha una gamba spezzata. Esatto, a cominciare da questo. Leggo sulle agenzie che è appena uscita questa, prosegue il silenzio stampa dell'Inter in campionato. Domani, vigilia della gara con il Palermo, non ci sarà alcuna conferenza stampa da parte di Mourinho né da parte dei giocatori. La comunicazione si è presa, dovrebbe riprendere solo dopo la trasferta siciliana. Due particolari di Mourinho, secondo me di segno opposto, ma li sottopongo a te. Due particolari minimi rispetto a tutto quello che ieri si è detto e non riguardano direttamente la partita. La prima è che ai microfoni ha parlato dopo di molti anni in cui l'Inter non si trovava così in alto, eccetera, non arrivava ai quarti. Non è esatto, mi pare, perché se io ricordo un altro quarto sicuro, ma mi pare anche una semifinale con Mancini e contro il Milan. Quella che poi fu sospesa anche con i petardi, certo. Tutto il resto, ci ricorda il doppio derby. Il Milan e l'Inter hanno giocato due derby europei, poi c'è stata tutta quella finale a Old Trafford tra il Milan e la Juventus, e il Milan si era qualificato contro l'Inter in semifinale per il gol in trasferta, tra l'altro, quindi nemmeno poi così sotto. Diciamo che questa era un'inesattezza da autopromozione. Invece vorrei che tu ci ricordassi o ci raccontassi, ma molti ascoltatori probabilmente la ricorderanno, l'ingresso finale in campo di Materazzi e la mossa di Mourinho, che secondo me lì davvero merita un voto altissimo. Eh sì, perché Materazzi aveva questo non so se fosse una piccola collanina, un braccialetto sì. Giallo, sì, mi pare. Sì, che poi alla fine è andato lui a toglierglielo, perché ovviamente non si possono... Sì, perché Materazzi sta cominciando quasi a litigare col quarto uomo. Sì, perché non si può, ma perché Materazzi, essendo un esordiente a questi livelli e non avendo mai giocato partite importanti, no, è una battuta. Cioè, a me pare veramente pazzesco che ci siano giocatori che entrino in campo con dei ninnoli, dei pendagli, piuttosto che con altre cose. Sì, poi in un momento concitato come quello, oltretutto. Appunto. E Mourinho gliel'ha strappato. Gliel'ha strappato, secondo me voto 10 in quel momento. Voto anche 10 e lode. Sì, poi è vero, hai detto bene tu, gli uomini, gli intellettuali come Materazzi, quando ci sono queste cose pratiche, insomma, può darsi che non si ritrovino, no? Può anche essere di no. Insomma, Problema è questo. Allora, morale, l'appuntamento è domani a mezzogiorno, e ecco, ricordaci bene il regolamento, perché poi ogni anno, visto che ogni tanto cambia, no? Cioè domani viene fatto il tabellone tennistico. Viene fatto il tabellone, quindi domani conosceremo non soltanto l'accoppiamento del quarto di finale, ma anche l'ipotetico accoppiamento delle semifinali. Quindi diciamo che domani avremo una chiave molto molto più chiara, cioè ci sarà proprio il percorso. E questa diciamo che domani è un passaggio davvero molto molto importante, perché potrebbe esserci una voragine nel tabellone come nel tennis, perché qualche testa di serie è caduta, anche se non ci sono in realtà teste di serie, oppure potrebbero esserci dei percorsi accidentati. Cioè teoricamente l'Inter potrebbe andare in semifinale affrontando CSKA, Bordeaux e magari trovare in finale il Lione, oppure dover affrontare ai quarti il Barcellona, in semifinale il Manchester United e in finale l'Arsenal, per dirti, quello sarebbe un tourmalet non certo. Comunque, ecco, è giusto per ricordare, qualche ascoltatore prima lo chiedeva, domani non c'è soltanto il sorteggio dei quarti, c'è quello e poi c'è il percorso che ti porta o non ti porta alla finale. Esattamente. Molto bene, grazie caro Ministro. A voi, buona giornata a tutti. Allora, si chiude questo collegamento con Sky Sport 24, ci sono molti messaggi vostri, qualcuno troverò il modo di leggerlo. C'è già un ascoltatore collegato, c'è la vigilia della Juventus, perché alle 19 mi pare gioca a Londra il ritorno, partendo dal 3-1 contro il Fulham. Potremmo sentire subito la vigilia di Del Piero. Beh, io qui in Inghilterra purtroppo con l'Arsenal ho sempre perso, col Fulham non ci ho mai giocato, col Chelsea qui ho perso, l'unica squadra con cui sono riuscito a vincere è stato Manchester United, quindi la voglia di affrontare la partita, di vincere, quindi di passare il turno, insomma, è primaria su tutto. Un titolo della stampa di stamane dice Del Piero pensa a Lippi, mi sto giocando la convocazione. Io sentirei prima questo ascoltatore che è già collegato da qualche minuto e poi vi leggo un altro titolo sulla Juventus della stampa di stamane che secondo me è discretamente da segnalare. Marco da Novara, buongiorno. Buongiorno dottore. Dica. La prendo sul ridere questa analisi. Lei dovrebbe ricominciare a bastonare la Juve, perché bastonava Capello ed è un numero uno, bastonava Lippi ed è un numero uno perché ha vinto. Ha bastonato Mourinho e ha dimostrato, io sono della Juve, sì, e ha dimostrato che è un numero uno, ricomincia a bastonare la Juve, per piacere. No, ma è una questione di atteggiamenti e di persone e di comportamenti, non credo che da questa bocca sia mai uscito che Capello non è un bravo allenatore o che non lo è Lippi o che non lo è Mourinho. Poi se singolarmente su tanti episodi si è d'accordo, si critica o si commentano in maniera variegata. Il calcio non è una scienza esatta e soprattutto il calcio è cronaca. Poi quando si dà invece un giudizio storico, evidentemente le cose cambiano. Nessuna bastonata, c'è questo titolo divertentissimo. Guardi che l'Inter in semifinale, scrive un ascoltatore, è arrivata con Cooper, non con Mancini. Benissimo, infatti mi sembra che fosse ancora il 2003, in effetti, che è poi la semifinale col Milan, da cui il Milan si qualificò per la finale contro la Juventus. Erano i bei tempi in cui c'erano 3 squadre italiane su 4 in semifinale. Ernesto da Lonato domanda invece la somma degli anni dei 3 marcatori del Barcellona ieri sera. Insomma, esatta non so, però a grandi Messi ne ha 22, Bojan e Pedrito ne avranno una ventina ciascuno, a metà 21, insomma, comunque tutti e tre fanno più o meno l'età di Favalli, insomma, se è lì che vuole arrivare, o ovviamente è una battuta. Il Barcellona è una squadra ragionevolmente giovane e soprattutto, vabbè, ma questo è un discorso già fatto altre volte, è una squadra che poi i giovani se li cresce in casa, perché i Messi, Bojan, cioè c'è metà squadra che è nata e cresciuta nella cantera del Barcellona, Messi compreso, e quindi quando ti puoi allevare dei giocatori che poi oggi sono diventati, questa una covata di campioni, no? Perché Messi, Xavi, Iniesta, Piqué, l'altro centrocampista di che c'era in campo ieri sera e che poi si è fatto male, cioè Sergi Busquets, Pujol, bandiera del Barcellona e prodotto del vivaio, credo anche il portiere. Bojan l'abbiamo detto, non credo sia finita perché qualcun altro c'è ancora. Beh, insomma, è ovvio che oltretutto la cantera del Barça significa che dalla prima squadra giovanile alla primissima squadra che gioca in campionato e in Coppa Campioni, tutti praticano lo stesso modulo di calcio, ovviamente poi adattato alle caratteristiche dei giocatori di volta in volta, ma adattato fino a un certo punto. E questa è una filosofia che non a caso ottiene dei risultati anche in termini di trofei, certamente ottiene un risultato di base che è quello di vedere giocare a calcio, come altrove è veramente difficile o è molto saltuario, lì è una costante. Gianni ha chiamato da Siracusa, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Premesso che auguro all'Inter di sfatare finalmente il tabù e arrivare in finale, bisogna dire che nel 2015 probabilmente potranno celebrare i 50 anni dall'ultima Coppa conquistata. In questi anni l'Inter ha avuto allenatori importanti, giocatori importanti e anche i presidenti fra Izzoli, Pellegrini, no? Erano dei personaggi che hanno dato tanto alla società. Secondo lei qual è il motivo, cosa è mancata a questa grande società che pure è stata ai vertici del calcio italiano per arrivare a ottenere il titolo di campionato d'Europa? Ci vorrebbero un paio di giorni per fare la storia di 50 anni, no? Evidentemente, non sono 50, sono 45 tra l'altro. E quindi è una domanda sinceramente a cui non riesco a rispondere, perché sennò chiudiamo il programma subito, la richiamo al telefono e ci facciamo una chiacchierata lei e io. Ci sono domande magari troppo nozioniste se vogliamo, ma questa in compenso di respiro troppo ampio, le ripeto, perché sennò sinceramente non so che ora la potremmo finire se vogliamo fare un discorso serio e articolato. Senta, parliamo invece dell'età di questi del Barça, che era la domanda di prima. Allora mi informa Flavio Suardi che Bojan è del 90, vuol dire che ha 20 anni, Pedrito è dell'87, quindi ha 23, 22 Messi, che è dell'87 ma deve ancora compierli a sua volta, quindi vede che siamo abbastanza in linea con quello che le dicevo. Vediamo se riusciamo a sentire. Stiamo parlando di Inter, stiamo parlando di Barcellona. Guardiola ha detto una cosa sull'Inter che, se vogliamo, può essere di maniera, ma se vogliamo può anche avere invece un certo interesse. Sentiamo. L'Inter è fortissimo, ieri ha fatto una partita grandiosa, complimenti per loro. Loro sono l'unica squadra italiana che è viva, noi siamo qua, l'unica squadra che siamo, sono fortissime, è un allenatore il più forte che c'è, Ferguson e Mourinho sono allenatori più forti che ci sono in giro perché hanno vinto tutti tanti anni, è una squadra fortissima, immagino, hanno vinto l'ultimo 4-5 campionati italiani, adesso l'hanno la sua testa alla Coppa dei Campioni, normale, non è un rivale per trovarsi, ma la fortuna dirà il venerdì. Anche il Barça, comunque, tutto sommato dell'Inter farebbe a meno volentieri, ed è comprensibile, vi ripeto, lo dicevo all'inizio, che i bookmaker hanno fatto scalare la classifica delle quotazioni all'Inter, che adesso è seconda, subito sotto il Barça e prima a una certa distanza dal Barça, ma comunque prima del Manchester United. Maurizio ha chiamato dalla provincia di Rimini, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Io ho guardato la partita ovviamente dell'Inter due sere fa e ho visto il campo del Chelsea che era un disastro. Siccome io la seguo sempre in inverno alla radio, abbiamo parlato del fattore neve, che il campo erano sempre bellissimi, ma ho visto prima i gol a Londra, poi i gol a Milano della partita d'andata e il campo dell'Inter era stupendo in confronto a quello del Chelsea. È verissimo, infatti ieri l'ha fatto notare anche, lo leggevo già ieri, il presidente del CONI, Petrucci. L'ha fatto notare giustamente, perché credo sia la prima cosa che è balzata all'occhio vedendo la partita l'altra sera, cioè subito dopo pochi secondi si vedeva che la palla non riusciva a correre, che quel campo era spelacchiato, ed è molto singolare trattandosi di un campo inglese e di uno stadio in genere in cui si gioca in condizioni ideali. A proposito di campi, allora ieri la Juventus si sta, vi promettevo questo titolo, vi avevo promesso prima questo titolo della stampa. di oggi. La Juventus si sta interrogando da tempo sul perché degli infortuni di questo numero abnorme, perché siamo arrivati a 53 infortuni di stagione. 53 è un numero pazzesco, cioè credo che sia un record mondiale di tutti i tempi. E allora c'è un'inchiesta interna per arrivare a capire perché. Tra questo c'è anche il fatto, c'è un'indagine sui campi di Vinovo, perché potrebbe darsi che per ragioni di umidità, di drenaggio delle acque, eccetera eccetera, questa fosse una delle ragioni per cui. Però il titolo in cui è stato sintetizzato questa cosa è il seguente: troppi infortuni, Blanc dice stop, due punti, virgolette, faremo test ai campi di Vinovo. Ora, sinceramente, mettersi a fare dei test ai campi di Vinovo, come, cosa gli fa? Gli misura la pressione o la glicemia? Diciamo che il titolo è venuto in questa maniera abbastanza divertente. Gennaro da Parma, buongiorno. Buongiorno, dottor Garancini. Dica. Io volevo solo far notare che la partita dell'Inter con il Catania abbiamo visto come è stato bloccato tutto il centrocampo dell'Inter, però evidentemente Ancelotti non l'ha vista la partita e quindi si è beccato quel gol così, perché le azioni dell'Inter vanno tutte a convergere verso il centro, bloccando quella zona nevralgica si risolve il problema. L'Inter non è così forte alla fine. Allora il Chelsea è stato, il Chelsea e Ancelotti ha sentito le loro, no? per aver subito così nettamente la superiorità dell'Inter. Adesso che il Chelsea e Ancelotti debbano andare a lezione dal Catania, insomma, mi sembra un po' eccessiva. Io credo, escludo che Ancelotti non abbia visto quella partita, e come Ancelotti anche i giocatori. Il problema è sempre che è sempre per l'appunto dei giocatori, che un conto le cose è vederle e studiarle e prepararle di conseguenza, altro poi è sempre metterle in pratica, tant'è vero che sono i giocatori che l'hanno messa in pratica poi l'altra sera e sono stati per una volta molto, molto bravi, indubbiamente. Luigi da Reggio Emilia fa notare, anche per ragioni di orgoglio territoriale, credo che Ancelotti si è dimostrato signore nella sconfitta. Pensate a ruoli invertiti, l'abbiamo già pensato ieri, Luigi, e non c'è dubbio che gli atteggiamenti, i comportamenti e le reazioni sarebbero state vaghissimamente diverse. Alessandro ha chiamato da Belluno, buongiorno. Buongiorno. Grazie per avermi chiamato. Allora, prima di fare la mia considerazione, vorrei dire che Materazzi, prima avete detto che non è abituato a certe partite, ma faccio notare che Materazzi ha fatto una finale del campionato del mondo. Appunto, ma infatti era ironico l'intervento di Tavelli. No, ho capito ironicamente, però insomma è giusto dare merito anche che ha fatto una finale del campionato del mondo. Ma chi dice no? Ma a maggior ragione, se uno ha fatto una finale del campionato del mondo e stai entrando in campo un minuto alla fine e c'hai un braccialetto e poiché il quarto uomo, che è lì per questo, ti fa notare che col braccialetto non puoi entrare, e questo è lì che temporeggia e comincia a discutere, arriva Mourinho, glielo strappa, viva Mourinho. No, sì, d'accordo, bon. Comunque ha ragione Mourinho, non dovrebbe cadere in queste cose qui Materazzi. Ma, e ripeto, è strano, trattandosi, come dice lei, di un giocatore molto esperto, e aggiungo io, di un intellettuale e un educatore, abbiamo appreso anche nei giorni scorsi, perché pare che sia lui che educhi, che in tempi passati vi ha dato consigli educativi a Balotelli, e allora qualcosa si comincia a capire. Poi volevo fare una considerazione che l'ascoltatore di prima mi ha dato anche quello che volevo dire, gli do un po' di una risposta, il perché dell'Inter non vince da 45. Io dico che a prescindere, e vediamo la netta superiorità del Barcellona a livello tecnico calcistico, che sono una spanna secondo me di un altro pianeta, proprio letteralmente solo loro possono perdere questa Champions. Dico che bisogna avere, oltre ad essere bravi, una buona dose di fortuna in questo torneo di Champions. Vedi Barcellona l'anno scorso col Chelsea, che strameritava di uscire in semifinale e ha trovato un gol al 90. L'arbitro ha negato. Alessandro, però la domanda siracusana era: cosa è successo in questi 45 anni? Allora, è per questo che non ho risposto, non certamente per villania o per mancanza di rispetto a quell'amico ascoltatore, semplicemente perché lei sta prendendo un episodio a caso. Se pigliamo 45 episodi a caso, a parte tutte le mancate partecipazioni, magari da qualche parte cominciamo ad arrivare, ma non comunque mettendo a fuoco completamente il problema. Un paio di mail prima del ripasso di storia. In una Marco Traversi fa una riflessione interessante a proposito di sorteggio e di avversari da trovare. Ricorda come l'Inter sia una squadra che porta a casa una barca di gialli, anche gratuiti. Gialli ovviamente sono i cartellini. E considerando, aggiunge che ogni due scatta la squalifica e tra Stamford Bridge e il Bernabeu, cioè la finale, passano ancora quattro lunghe partite, questo è un parametro da tenere presente, mi pare abbia perfettamente ragione. Un altro è un messaggio molto divertente di Gabriele, provincia di Padova, che scrive: cosa ne pensa del fatto che il giudice sportivo non ha squalificato Felipe Melo con la prova TV? Che messaggio possono ricevere i ragazzi che vedono impunito un fallo di reazione? Lasciamo stare. Diamo una, due, tre giornate per una bestemmia, nessuno, e lasciamo impunito chi attenta all'incolumità fisica. E anche qui io lo trovo abbastanza giusto, ma si può discutere. Ma è la battuta finale che è divertente. Non è che Tosel odia la Juve e così obbliga Zaccheroni a schierare Felipe Melo. Il ripasso di storia con Nicola Filippone. Sembra ieri. 18 marzo 1973. La Fiorentina di Lidl sconfigge il Cagliari per 3-0. Per la prima volta nel tabellino dei marcatori del campionato compare il nome dell'astro nascente Giancarlo Antognoni, che firma la terza rete sorprendendo su punizione, la sua specialità, il portiere dei sardi Albertosi. Nelle sue 15 stagioni in Serie A da leader dei Viola, Antognoni metterà a segno 61 gol, l'ultimo dei quali risale al 12 aprile 1987, in un derby con l'Empoli finito 1-1. Torniamo in onda e c'è Massimo che ha chiamato da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io sono stato un po' preceduto sull'argomento di Ancelotti, di come lui abbia reagito per i due rigori, non si è fermato sugli episodi come diceva lei prima, da italiano diciamo così, no? Certo. E ha analizzato la prestazione e sulla prestazione ha detto insomma l'Inter meritava. Ora la domanda è a questo punto: se l'onestà intellettuale è così merce rara oppure se semplicemente Ancelotti sa dove prenderla mentre Mourinho no? È merce rara secondo me, o comunque sono valide, sono giuste tutte e due le cose, però io non le sento, perché le interviste dopo partita non le sento ormai praticamente mai, però quando le risento qui l'indomani o quando la mattina le riascoltiamo, quando le leggo l'indomani sui giornali, non le leggo ma insomma ne vedo richiamati i titoli o i sommari, ho l'impressione che sia effettivamente merce sempre più rara, e Ancelotti da questo punto di vista è sempre stato un signore, lo era già in Italia, non è che è cambiato e migliorato andando in Inghilterra, lo era già prima. Sentire questa dichiarazione del direttore generale della Lega, la Lega Calcio intendo, dunque contiamo che tutte le società di Serie A e B saranno pronte per la tessera del tifoso dalla prima giornata della prossima stagione. Allora, prendete nota, oggi è il 18 marzo del 2010, la prima giornata della prossima stagione credo sarà il giorno 29 o 30 agosto, qualcosa di questo genere, il giorno prima o il giorno dopo ne riparleremo insieme. Contiamo che tutte le società di EBE siano pronte per le tese del tifoso dalla prima giornata della prossima stagione. Parliamo invece della 29esima, che è quella che si gioca la prossima domenica, che consiste in Atalanta-Livorno-Orsato, Bari-Parma, arbitro guida, Cagliari-Lazio-Celi, Chievo-Catania-Giannoccaro, Fiorentina-Genova, anticipo di sabato alle 18, Russo, Milan-Napoli-Bergonzi, Palermo-Inter, anticipo di sabato alle 20.45, D'Amato, Roma-Udinese, anche questa sabato 20 marzo alle 20.45, Pierpaoli, Sampdoria-Juve, taglia 20.45, leggo, quindi non so, giocano tutti alle 20.45, Tagliavento di Terni e Siena-Bologna, Gava di Conegliano. Giuseppe, provincia di Messina, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto complimenti per la sua trasmissione. Volevo soltanto dire complimenti anche all'Inter per la partita che ha fatto in Inghilterra contro la squadra di Ancelotti, però volevo dire una cosa. Ho delle perplessità per quanto riguarda il signor Galliani, della sua contentezza per l'Inter, per tutte queste cose qua, in quanto mi sembra che abbia fatto di tutto per poter far disputare la prima partita del Chelsea subito mezz'ora prima della fine della partita del Milan con la Fiorentina, che doveva essere la partita dell'aggancio secondo loro. quindi questa, e poi mi dispiace per quello che sta accadendo adesso nel campionato, perché tutti sono 5 partite che il Milan viene avvantaggiato e francamente questo e l'Inter è danneggiato in tutti i modi. Stiamo tornando a casa, insomma, no? Giuseppe, abbiamo fatto sta gita a Londra, no? di metà settimana, qualche fotografia, qualche bel souvenir, soprattutto questa bella vittoria a Stamford Bridge. Adesso stiamo rincasando e quindi è il caso che una volta ripassata la frontiera torniamo a farci riconoscere, ma credo che sia abbastanza normale, che faccia parte del costume e delle abitudini. Tocca a Guido da Verona, buongiorno. Guido? No, Guido evidentemente non dà segnali, lo richiamiamo, sarà caduta la linea. Ci spostiamo di poco, andiamo a Padova da Daniele, buongiorno. Buongiorno signor Grantini. Dica. La chiamavo per fare un piccolo riassunto, perché l'Inter non ha vinto i 50 anni da Champions League, perché a parte gli ultimi 10... A parte che sono 45, sì. 45, ma sì, non, però, può chiamare direttamente Gianni da Siracusa? Lo so. Se le do un numero. Solo una cosa, l'Inter non ha vinto perché non partecipava, potevano partecipare prima solo chi vinceva il campionato, e ha vinto 3 bellissime Coppe UEFA quando la Coppa UEFA contava molto, quindi a livello europeo potevano partecipare a Coppa dei Campioni prima solo i vincitori di campionati. Ha vinto comunque 3 grandissime Coppe UEFA, perché ha vinto 3 bellissime Coppe UEFA quando sì, aveva ancora grandissime, un bellissime, fantasmagoriche anche. Ripeto, chiami Gianni, che così vi sincronizzate e vi chiarite su questo. Com'erano queste Coppe UEFA, Daniele? Stratosferiche. Posso dire un'ultima cosa? Sì, dica. Dico, per il discorso invece dell'Inter di Catania, non credo che il Ancelotti non abbia visto la partita, ma credo che una squadra come il Chelsea pensi di più a fare gioco che non a rompere quello dell'Inter, quindi secondo me Ancelotti ha guardato sicuramente la partita, avrà istruito i suoi giocatori, però con una mentalità vincente come quella del Chelsea non poteva pensare a rompere il gioco dell'Inter e a non fare la sua partita. Vede i guasti che ha fatto questa espressione, mentalità vincente, cioè le pare che sia una questione di mentalità vincente, oppure che gli 11 giocatori del Chelsea, come dire, sono un po' più forti di quelli del Catania? Dopodiché quelli del Catania venerdì sera hanno giocato una magnifica partita al di sopra delle loro normali possibilità, nel senso che se avessero giocato così tutto il campionato non starebbero lottando per salvarsi. Però non è nemmeno vero, in compenso, che hanno giocato solo per spezzare il gioco dell'Inter, tant'è vero che nei primi 10 minuti è incredibile come non siano passati in vantaggio già inizialmente, no? Proprio perché mi sembra che la possibilità ci fosse e fosse stata e fossero abbondanti. Ancora un ascoltatore collegato, Guido da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini, io volevo dire una cosa, io sono andato domenica a vedere Milan-Chievo. Sì. E sono rimasto perplesso perché sono tifoso milanista, ero tutto contento dell'aggancio possibile con l'Inter. Però a parte che ho visto una squadra vecchia, non sono rimasto perplesso da Ronaldinho. Ha fatto 2 scatti l'ultimo quarto d'ora della partita. Ha giocato a fermo tutta la partita. Volevo capire e chiedere a lei se secondo lei dipende dal ruolo che ha giocato come seconda punta nel primo tempo, oppure è arrivata la frutta? Punto di domanda, perché... Ma Guido, non sarà mica la novità che il Ronaldinho gioca da fermo, no? Gioca in una piastrella, da quella piastrella si muove raramente, però insomma, quest'anno, a differenza dello scorso anno, anche in quella piastrella qualcosina di bello ha combinato. Se lei, io capisco che vedere una partita dal vivo sia diversa che vederla in TV, però non è che adesso possiamo andare allo stadio e scoprire che Ronaldinho non è Mennea, perché sinceramente mi sembrava che l'avessimo già messo a fuoco. Grazie Guido, grazie a Filippo Auregi in regia, grazie a Flavio Suardi in redazione, e buon pomeriggio a tutti.